La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon venerdì 13 dicembre, venerdì 13 noi non siamo ovviamente scaramantici, naturalmente neanche voi, però è venerdì 13 di dicembre. In questo venerdì 13, appunto per non essere scaramantici, abbiamo deciso di trattare nella puntata un tema che è una delle altre facce del meccanismo che si è inceppato in questi anni nel nostro paese. Non ci sono solo le imposte ovviamente pesanti, il meno lavoro, la domanda interna stagnante per via dei redditi che sono scesi come a prezzi correnti non erano mai scesi in 152 anni di storia. Un altro capitolo molto importante della stasi italiana, dico stasi perché siamo riusciti ad arrivare finalmente nell'ultimo mese a una crescita zero, che allegria, e quindi siamo ancora però a 24,2 punti di produzione industriale meno del 2007, ma uno dei pilastri che non funzionano della crescita che manca è quello del credito, cioè di un sistema bancario che afflitto da sofferenze in crescita, oltre 240 verso i 250 miliardi di euro di sofferenze, cioè di crediti incagliati, a fronte del quale le banche devono mettere capitale a riserva, patrimonio a riserva in garanzia di questa mole di crediti in sofferenza. Poi di fronte ovviamente a un margine di intermediazione che resta molto basso, a costi fissi molto elevati, di qui il fatto che hanno chiuso 5.000 agenzie in questi ultimi due anni, e quindi ci sono anche problemi di eccesso di personale. Per tutte queste ragioni e anche per i 400 miliardi di euro di titoli pubblici che ci hanno in pancia per sostenere lo Stato, le banche restringono il credito e siamo a ritmi di restrizione del credito che restano per le imprese superiori al 5% su base annuale, mese dopo mese. Tenete conto che il credito cresce di solito più dei valori di crescita nominale, diciamo che quando la crescita è negativa o zero comunque dovrebbe essere su più 4 più 5%, tenete conto che nei 5 anni pre-crisi il totale del monte impieghi a famiglie e imprese italiane in 6 anni era cresciuto del 100% in Italia, per avere un'idea dei ritmi di crescita quando le cose vanno ordinariamente, e qui siamo invece a anni successivi di diminuzione di queste proporzioni. Ed è una puntata per fare capire che la restrizione di credito non colpisce solo chi è in difficoltà, le imprese in difficoltà, le famiglie a sostegno dei consumi, ma colpisce anche chi ha buone idee e crea di fare nuove imprese intorno a idee avanzate. E quindi c'è il problema delle start-up. C'è una storia in particolare che ci ha colpito in questi giorni. C'è la storia di due manager che intorno a un'idea di prodotto avanzato creano una società nuova. Ed è una storia particolare perché questa idea è valutata molto positivamente, tanto che gli arriva una garanzia, il problema del credito dovrebbe essere risolto, e invece neanche in quel caso, e quindi abbiamo deciso di farla raccontare a loro per farvi riflettere a voi in ascolto. E con noi appunto uno dei fondatori di questa startup tecnologica, la società si chiama NTT, che sta per New Tech Targets, è un'impresa che nasce a Fagnano Olona qua in Lombardia, ed è con noi Adriano Moioli. Buon pomeriggio Moioli. Sì, buon pomeriggio. Allora, raccontiamo un secondo, lei insieme a un altro manager, avete fatto i manager nella vita, insieme a Mario Borri, che è collegato anche con noi, che è il presidente di NTT, quindi lo saluto. Presidente Borri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, Moioli, voi avete avuto un'idea, dopo una vita passata a fare i manager, creiamoci imprenditori. Che idea è, intorno a che idea nasce questa vostra NTT? Allora, quello che vorrei riuscire a trasmettere è questo. L'idea nasce da qualche decennio, si può dire, perché noi abbiamo un'età abbastanza avanzata, io ho 66 anni, 72 l'ingegnere, quindi capisce che non siamo di primo pelo. Abbiamo lavorato per decenni in un determinato settore e abbiamo pensato di innovare un settore tecnologico, un settore che ormai cioè si stava avviando in Italia a una perdita totale. Cioè noi possiamo dire che una ventina d'anni fa in Italia si contavano più di un centinaio di aziende che lavoravano in questo settore, che è un settore della spalmatura, diciamo, quello che un po' per farsi intendere, quello che viene chiamato la finta pelle, diciamo, eccola, che è prodotta con dei solventi. Oggi le aziende sono ridotte a una piccola sparuta schiera di una decina di aziende, più o meno tutte in difficoltà. Noi abbiamo pensato a questa innovazione, Ma quello che è il più, questa innovazione, noi è già dal 2005 che siamo dietro. Io vorrei, anche perché poi questo stato d'animo che abbiamo si contrapporrà dopo con quello che ci troviamo di fronte. Noi l'euforia, l'entusiasmo nel vedere che quello che si è pensato funziona. Cioè abbiamo fatto qualcosa, cioè ormai in questi anni, cioè abbiamo superato quello che è il momento di vediamo un po' funzionerà, non funzionerà. La cosa funziona. Il prodotto c'è, c'è il modello di business, è testato sul mercato, ha bisogno delle risorse per svilupparsi, per così dire. Ha bisogno delle risorse per svilupparsi. È evidente che non possiamo sapere, non si poteva sapere a priori dove saremmo finiti. Cioè è chiaro che una cosa che va avanti, non dico che va avanti, cioè a vista, ma anche perché è fondato comunque su un'esperienza abbastanza consolidata, rimane il fatto che è un tentativo che è stato fatto, noi lo sappiamo perché siamo esperti del settore da parecchi anni, e quello che è entusiasmante è il vedere che funziona, cioè si sta materializzando, si è materializzato. E questo cosa ci porta? A vedere il futuro in un modo più ottimista rispetto ad altri, cioè noi abbiamo un domani, abbiamo difficoltà, ma sappiamo che il domani potrà portarci solo del bene. Certo. Ed è, credo, uno stato d'animo che chissà quanti hanno. Chiaro, perché questo è un paese in cui l'idea di microimprenditoria, l'idea soprattutto di tentare di creare da idee imprese, è più diffusa tra tutti i paesi avanzati, è una delle grandi forze di questo paese, da cui poi vengono anche talenti di imprese. Solo che io mi immagino, cioè già noi, vabbè, poi dopo magari l'ingegner Bolle racconterà di più, perché diciamo, oltre a essere presidente, la parte più finanziaria, attenzione, quest'idea è partita già. Ci sono già stati messi più di 2,5 milioni di capitale. Certo. Totalmente privato. Esatto, quindi non è che si tratta di chiedere soldi pubblici. Ma non è che a un certo punto chi poi va a giudicare questo dica, vabbè, ma qui abbiamo di fronte due persone che hanno una vita imprenditoriale limpida, non hanno mai avuto un metro dentro, chi se ne frega, cioè praticamente. Allora, io dicevo, io ho cercato di mettermi e di trasmettere anche questo. Il giovane, per me giovane, già 40 anni, cioè uno è giovane, no? Il giovane che ha un'idea, la sta realizzando, vede che funziona, tra l'altro, perché poi qui non siamo più a dire funzionerà o non funziona, vede che funziona, poi si trova davanti a un funzionario che gliela sega, ma gliela sega al funzionario della banca. E qui arriviamo al problema. Noi adesso avremo un'interruzione per l'informazione stradale, torniamo dopo un minuto, e a quel punto ripartiamo con il presidente Mario Borri per spiegare a voi qual è stata a quel punto invece la novità rispetto a chi si vede negato il credito, anche di fronte a una buona idea. Qui c'è una novità, c'è una struttura centrale che dice no, questa è una buona idea, io vi do la garanzia. C'è una novità positiva però, perché a un certo punto viene una garanzia che viene dal Fondo Centrale di Garanzia per le start-up, istituito proprio in questi anni presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è così? E praticamente è recente questo concetto di start-up che si è diffuso un po' in tutti i settori. Nel nostro caso, in primavera, è stata istituita presso le Camere di Commercio una categoria speciale di start-up che viene chiamata start-up innovativa. Cioè ci deve essere un concetto di innovazione a accompagnare il termine startup. La nostra idea, oltre a produrre dei materiali speciali, ha anche il merito, se vogliamo, di risparmiare enormemente in termini di inquinamento ambientale. E questi valori sono stati riconosciuti dal Fondo Centrale di Garanzia, emanazione del Ministero dello Sviluppo Economico, meritevoli di una garanzia che cessa ai massimi livelli, cioè l'80% del finanziamento veniva garantito. Questa garanzia la dovevamo spendere nei confronti di una banca. Certo. La banca in questione è il Mediocredito Centrale, che fa parte del gruppo Intesa San Paolo. Esatto. Per essere chiaro. E allora a quel punto, quando si è trattato di fronte al Mediocredito Centrale di dire benissimo, abbiamo ottenuto questo primo riconoscimento in Italia, non sono soldi pubblici, ripeto, è la garanzia su un montante molto elevato del credito che deve essere comunque concesso da una banca privata a fronte del valore del progetto. Quando si è trattato poi di andare in banca e dire ecco la garanzia, la banca che vi ha risposto? Mi ha chiesto, diciamo chiaramente, una fiduzione totale del finanziamento. Quindi, cioè, come se la garanzia pubblica, ripeto, strumento innovativo, non ci fosse. Siamo stati trattati come un'azienda normale, ritengo. Questo ci ha molto sorpresi. Non si capiva bene il perché di questa richiesta. Inizialmente, tra le altre cose, ci è stata richiesta per 5 anni, poi sono stati ridotti a 2, ma non è che il 5 o il 2 crei una differenza, certo. È il concetto che non ci quadrava. Naturalmente io la interrompo semplicemente per ricordare a chi è in ascolto, nel vostro caso manager che hanno dietro decenni di attività, ci hanno già speso molto del loro, è ragionevole immaginare, anche se non glielo chiedo, che comunque di fronte a una fideiussione, dopo che uno già speso molto per sviluppare un'idea, in fase iniziale dopo la fase del seeding della startup, la banca chiede una fiduzione, magari il manager ce l'ha ancora, è escluso che questo possa capitare a giovanissimo, a giovane ricercatore, perché come ovvio siamo in un paese in cui il patrimonio quando uno è giovane non ce l'ha accumulato. In ogni caso, di fronte a questa richiesta della banca di comportarsi come se la garanzia pubblica non fosse stata data in relazione all'innovatività del vostro prodotto, voi in banca, immagino, signor Bori, avrete fatto presente, dice, ma come? E allora questa cosa che ci hanno, questo riconoscimento che ci è venuto, a che cosa serve? Glielo avete detto? E loro cosa hanno risposto? Il discorso era legato al fatto che questa garanzia era non certa per certi aspetti, perché se noi avessimo approfittato di questa garanzia per scopi non prettamente inerenti al progetto, avrebbero potuto esserci problemi a far valere la garanzia da parte della banca nel caso noi non quindi avessimo... In parole povere, la banca vi ha detto 2 cose: primo, che in ogni caso fidarsi di voi, ma fino a un certo punto; secondo, tantomeno, scusi se sono brutale, dello Stato, perché a quel punto lo Stato col cavolo che paga. Bella maniera però di verificare qual è la risposta che dal sistema bancario viene a queste garanzie pubbliche, ripeto, concesse solo in presenza di progetti di particolarissima innovatività. Quindi a quel punto, Borri, voi cosa avete dovuto? L'avete sottoscritta la fiducia? Io in pratica sono sicuro, sono certo che il nostro progetto funziona. Non ho avuto timori o ripensamenti nel firmare la garanzia, però logicamente ho ritenuto che fosse il caso che la cosa fosse conosciuta. In maniera tale che tutti riflettano. Posso farle una domanda? Cambiare banca, secondo lei, avrebbe avuto lo stesso effetto? Non lo so. Il fatto è che questa garanzia viene spesa nei confronti della banca che noi indichiamo. Quindi non possiamo cambiare poi, certo, l'istituto di credito. Una volta che è spesa con una banca, è spesa. Vi siete fatti vivi con qualcuno rispetto al quale avevate indirizzato la segnalazione della vostra startup del fondo del ministero che fa le valutazioni che vi hanno cesso la garanzia, dicendo: scusate, vi ringraziamo molto, ma questo è il risultato? O lo avete fatto semplicemente rivelando e noi a questo punto amplifichiamo la vicenda con i microfoni di Radio 24 perché fosse noto? Ma io, fossi stato in voi, una telefonata al ministero l'avrei fatta per levarmi un dente avvelenato. Sinceramente abbiamo ritenuto che fosse sufficiente renderlo pubblico. Poi penso che il Ministero in qualche modo, spero che lei spera, ma non lo so se comunque sia, noi siamo qua appunto per parlare della vostra vicenda e per fare riflettere tutti sul fatto che anche di fronte a strumenti innovativi con garanzia pubblica, non soldi pubblici, ma garanzia, perché ci sono progetti valutati innovativi, questa è la risposta del sistema bancario. E stiamo parlando di un istituto che fa parte del perimetro della prima banca italiana, non la prima per attivi, quella è Unicredit, è la più internazionalizzata Unicredit, ma come raccolta e come peso sul mercato italiano, e stiamo parlando della prima, cioè di Intesa, e questo, devo dire la verità, a me dispiace molto. Borri, l'orizzonte comunque della vostra NTT rimane positivo? Sì. Sì, noi abbiamo, come dicevamo Ioli prima, noi facciamo dei prodotti particolari, ma la nostra intenzione è anche quella di rendere disponibile ad altre aziende, certo, questa tecnologia che noi abbiamo sviluppato. La stiamo brevettando, ma con lo scopo di comunque di renderla disponibile a questo settore Allora, ingegner Borri, sì. Adriano Mojoli, io vi saluto e vi ringrazio, soprattutto perché alla vostra età date un'ennesima dimostrazione della voglia italiana di non arrendersi, mettendo a frutto e migliorando quello che uno nella vita ha fatto già di meglio. Purtroppo il sistema bancario italiano avrà un regalo sulla rivalutazione delle quote Banca d'Italia. Sono scandalizzato che la Banca d'Italia abbia riunito l'Assemblea straordinaria per il 23 di dicembre per cambiare già lo statuto prima e senza che il Parlamento abbia esaminato il decreto legge. Mi prendo la responsabilità di dare un giudizio molto secco. Questa invece è la risposta, come abbiamo visto oggi, che viene al sistema delle imprese e delle leggi innovative. Allora, grazie a Mojoli Borri, grazie a voi che siete in ascolto. Continuate su Radio 24, con me appuntamento a lunedì.